Euroreportage. Alcoa, una storia italiana di declino europeo, di Valeria De Rosa. Se è disperata, non lo so, sicuramente è molto delicata, senz'altro. Il recupero sostenibile di una fabbrica di quell'età, su quel tipo di prodotto, per quei tipi di quantitativi che è in grado di immettere nel mercato, per la dimensione stessa, insomma, credo che sia problematica in un'Europa laddove hanno chiuso e stanno chiudendo degli smelters anche un pochino più competitivi di quelli di Portovesme. Lui si chiama Mario Conserva, è un dirigente della Federazione Europea dei Consumatori di Alluminio e in poche parole ha riassunto quello che molti pensano. Il programma del presidente della Commissione Juncker si compone di 5 punti. Il primo riguarda il lavoro e le politiche per favorirlo e creare crescita. Il secondo riguarda l'energia, la riorganizzazione della politica energetica per far fronte ai prezzi più bassi di altri. Questa è una storia che parla di Unione Europea, di Sardegna, di energia e di occupazione, ma soprattutto parla di alluminio. La domanda mondiale si aggira intorno ai 59 milioni di tonnellate, la produzione viaggia intorno ai 61 milioni. Solo poco tempo fa la Commissione Europea scriveva: esiste un serio pericolo che l'industria dell'alluminio scompaia dal continente. I motivi? Gli alti costi di produzione. L'energia rappresenta circa il 30% del costo di produzione dell'alluminio. In Europa una tonnellata può arrivare a costare 2.230 dollari, negli Stati Uniti 1.940 dollari, in Medio Oriente 1.400 dollari. Dal 2003 al 2014 hanno chiuso 11 grandi fonderie europee. La produzione di alluminio è calata del 40%. L'industria dell'alluminio impiega in Europa circa 80.000 lavoratori. L'europarlamentare Flavio Zanonato ha a che fare con i problemi delle industrie europee tutti i giorni. L'industria europea sta perdendo di competitività nei settori cosiddetti maturi, cioè laddove la componente della ricerca e dell'innovazione è meno importante, quindi dove siamo raggiunti per capacità di produzione da paesi che sono in grado di produrre beni esattamente identici ai nostri e a costi decisamente più bassi. La storia, vista dall'Europa, sta più o meno così. Ma tra quegli 80.000 ci sono anche i 500 operai dell'Alcoa di Portovesme. E allora, nel racconto, i numeri, le politiche industriali, il prezzo dell'energia si mischiano con la vita reale, quella di chi in fabbrica ci è cresciuto e quella di chi aveva appena cominciato e si ritrova a poco più di 20 anni in mobilità. A fine agosto sembrava tutto finito, gli americani avevano comunicato l'impossibilità di trovare un acquirente, dunque lo stabilimento andava smantellato. La storia, a Portovesme, si è interrotta nel 2012, quando la multinazionale ha deciso di chiudere i cancelli per colpa di una multa, salata, inflitta da Bruxelles a Roma, per aiuti di Stato. Per parecchi anni, infatti, l'Italia ha concesso un prezzo dell'energia agevolato all'Alcoa senza mai risolvere la questione, nonostante le sollecitazioni della Commissione europea. 300 milioni dovuti e ricaduti sulle spalle di Alcoa. Le colpe della politica nelle parole di Bruno Usai, della segreteria della FIOM. Dal 2009 che noi mettiamo in risalto un problema che c'era sia della nostra fabbrica, della nostra produzione, ma anche del problema industriale del nostro paese. C'era un costo dell'energia superiore in tutto e per tutto rispetto ad altri paesi europei. Soprattutto nel nostro settore il costo dell'energia, che è un settore dove l'energia è la materia prima, il costo dell'energia era il doppio rispetto, che ne so, alla Germania o alla Francia. Senza un intervento del governo non si poteva produrre. Secondo noi le cose dovevano andare in modo diverso, cioè fatte in modo più serio e così come diceva il protocollo europeo. Questo non è venuto da noi e ci sono stati dei problemi sanzionatori che hanno poi inciso nelle altre decisioni prese dalla multinazionale, che era uno del costo dell'energia, ma anche la multa da parte dell'Unione Europea che ha obbligato il governo italiano a incassarla da parte della multinazionale Alcoa. Certo, poi ci sono stati altri motivi che hanno indotto alla chiusura dello stabilimento, che tra Uno di questi è stato appunto di essere in mezzo a una crisi finanziaria e economica mondiale che, con una flessione magari del mercato, in quel momento la direzione o il vertice dell'Alcoa ha preso la palla al balzo, decidendo appunto di chiudere alcuni stabilimenti per abbattere la produzione propria di alluminio. Così hanno fatto altri produttori mondiali di alluminio, facendo così, diminuendo la quota di mercato, hai aumentato il prezzo del proprio prodotto. Forse gli americani non aspettavano che una scusa valida. Il primo novembre Alcoa si è divisa in due, da un lato il business dell'alluminio, dall'altro una nuova società, Arconic, concentrata sull'aerospaziale e l'industria automobilistica. E però, quando sono arrivati, ereditando la fabbrica allora statale, gli americani hanno anche preso. Per assurdo un po' di paura ce l'avevamo, no? Passare al privato, dal pubblico al privato. In effetti devo dire che Alcoa ci ha portato ordine di stabilimento, ci ha portato sicurezza nel lavoro, corsi. Alcuni di noi facevano l'alluminio e lo sapevano fare benissimo, però tecnicamente non sapevamo neanche spiegare cosa facevamo. Alcoa ci ha formato, la professionalità che avevamo ce l'ha completata, insomma. Da quel punto di vista non possiamo dire niente ad Alcoa, possiamo dire altre cose. Tutto ciò che c'è stato sul passaggio dal governo a un privato, che oggi fa molto più male sapendo che anche Alcoa è andata via, voglio dire, ciò che è stato dato ad Alcoa, a mio parere doveva stare in eterno per quello che gli è stato dato. Gli è stato dato lo stabilimento, gli è stato regalato forse il doppio del valore stabilimento in alluminio che c'era giacente dentro lo stabilimento. Quindi era quello che ci faceva noi anziani, quelli che c'eravamo, che ci faceva pensare che Alcoa non sarebbe mai andata via. Poteva finire come mille altre vertenze: la chiusura, la cassa integrazione, la mobilità, la lotta che man mano si affievolisce, una soluzione comunque dolorosa. A Portovesme non è andata così. La fabbrica è chiusa, ma accanto al cancello il presidio è vivo. Al di là del piccolo ingresso c'è una lunga tavolata, la cucina, le tende, una doccia. E ci sono le squadre di operai che si danno il cambio. Il presidio è di tutti, di ogni sigla sindacale. Si mangia assieme, si discute, si presidia. Si voleva dimostrare il fatto che veniva a mancare il lavoro, e quindi bisognava avere un punto di riferimento dove poter incontrarsi e decidere, far qualcosa far sapere alla gente che noi c'eravamo, non volevamo essere abbandonati, ecco. Era anche un momento di stallo della situazione, c'era un po' di silenzio, non era un periodo che si parlava, e quindi un paio di operai è venuto in mente questa idea di fare questo. Ci siamo riuniti 5 o 6 e siamo partiti maggio, nel maggio 2014. Sono 2 anni e mezzo qua, che siamo qua. E adesso come va? Adesso come va? È sempre un sacrificio, perché c'è chi arriva, si fa 50 km per venire, chi vabbè è vicino, ma è un sacrificio, senza dubbio è un grande sacrificio, però purtroppo dobbiamo continuare a lottare per questa cosa, dobbiamo crederci sempre. Ida, Moelvio, Stefano, Giampa, Sandro, Federico, Giorgio, Mauro, Milena, Chiaro. Il presidio non è la fabbrica, ma la rappresenta, è la quotidianità, la speranza, la lotta. Questi operai hanno bloccato 2 aeroporti, il porto di Cagliari, più volte le autostrade. A Roma le loro manifestazioni non sono mai passate sotto silenzio, hanno incassato le cariche della polizia, non si sono mai arresi. Mauro è stato denunciato più volte. Sono abbastanza orgoglioso di quello che ho fatto. Una lotta giusta per un lavoro che mi spetta, è un diritto, diciamo. Poi le conseguenze non sappiamo quali sono. Però mi sento abbastanza sereno di quello che ho fatto. E lo rifarei, non sono pentito. Anzi, sono pronto a combattere fino a... Se ci sono altre manifestazioni da fare, le faccio tranquillamente, senza paura, senza niente. Una manifestazione per il nostro diritto, basta. Alcuni di loro sono in affidamento ai servizi sociali, altri hanno processi pendenti. Dopo 4 anni, finita la cassa integrazione, per i più giovani sta finendo anche la mobilità. Nessuna resa però, perché quello che sanno fare, lavorare l'alluminio, lo sanno fare bene. Sappiamo fare questo prodotto, capito? E ci crediamo. E quindi tutti i miei amici, cioè, che anche chi è partito fuori sono pronti a rientrare, pronti a riaprire questo stabilimento, capito? Quindi a noi anche, non solo anche per il territorio, per tutto, perché qua è un dramma sociale davvero. Dobbiamo vivere, se non è questo dobbiamo fare altro per forza, non possiamo arrenderci così. Per mesi Alcoa ha allontanato possibili acquirenti, ora uno spiraglio c'è, l'energia allo stesso prezzo che negli altri paesi europei e la multinazionale ha messo la sua firma sul contratto con Invitalia, l'agenzia nazionale statale per l'attrazione degli investimenti. Dovrà cercare un acquirente e metterlo nelle condizioni di lavorare a Portovesme. Un anno di tempo. Roberto Forresu, segretario Fiam Sulcis. Lo stabilimento, nelle condizioni in cui era, nel momento in cui è stato fermato, può tranquillamente ripartire, produrre attivamente e soprattutto essere rilanciato, soprattutto se si considera che può avere quel valore aggiunto che era dato dalle conoscenze che i lavoratori, che i tecnici avevano dello stabilimento e che facevano sì che quello stabilimento producesse un alluminio di qualità che soddisfava molte richieste a livello nazionale, tra le quali anche la Ferrari per esempio. Quello stabilimento è nelle condizioni di ripartire, di produrre attivamente, produrre utili sin da subito. Euro Reportage in collaborazione con Euronet Plus.